9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti ufficialmente nel manicomio Italia, titola il giornale di Vittorio Feltri. Oggi, vaffa dei giudici al PDL, titola Libero. Sull'altro versante, invece, il manifesto, Oscar per la migliore interpretazione, c'è un giudice che brandisce un Oscar, dice Avatar del Lazio, PDL fuori dalle elezioni nella provincia di Roma, eccetera, eccetera. L'unità, un cono con le due orecchie di un somaro, bocciati, il TAR respinge il PDL. In ogni caso, la vasta pattugliona dei giornali sedicenti indipendenti, e cioè alieni dalla contrapposizione diretta che c'è tra il giornale e Libero da una parte e testate politiche come l'Unità, come il Manifesto, come Liberazione dall'altra, fa chiaramente intendere con gli editoriali pubblicati oggi sulla Stampa, firmato da Marcello Sorgi, sul Corriere della Sera, con quello di Massimo Franco, con i titoli inequivocabili, pasticcio parte seconda, più politici meno avvocati, che ci si sta avvitando in una crisi la cui conseguenza sarà quella di delegittimare in ogni caso, comunque vada a finire, non solo questa tornata di elezioni regionali, ma la Seconda Repubblica, il bipolarismo, Berlusconi inevitabilmente come colui che ne incarna da 15 anni l'alternanza obbligata, perché tutte le volte che lo hanno sbattuto giù con una cosa o con l'altra lui ha le elezioni successive dopo averle perse, però le ha rivinte, ed eccoci quindi in una contesa in cui la contrapposizione tra ragioni del diritto e ragioni della politica non riesce più a trovare un punto di caduta. Avrete già capito, sentendo i tre giornali e i giornali radio di oggi, non riepilogo tutte le vicende perché sennò farei perdere solo tempo, che il giudizio con il quale il TAR del Lazio ha dichiarato non applicabile alla Regione Lazio, perché ha disciplinata dopo la competenza trasferita alla Regione con una propria legge la materia dei requisiti per partecipare alle elezioni, e quindi ha detto il decreto legge emanato venerdì sera della settimana scorsa dal governo non si applica alla Regione Lazio, e comunque qui non c'erano i rappresentanti delle liste entro il termine più estensivo del palazzo nell'ora prescritta come indicato dal decreto, ma non è un'udienza di merito. L'udienza di merito è già fissata per l'inizio di maggio, cioè dopo le elezioni. A questo punto potrebbe essere ribaltato, forse, ma c'è chi dice di no in punta di diritto, questo tipo di giudizio del TAR da parte dell'ufficio elettorale della Corte d'Appello, che si deve comunque pronunciare oggi. Ci potrebbe essere comunque l'impugnativa, e ovviamente è stata preannunciata, al Consiglio di Stato rispetto alla decisione del TAR, e anch'essa avrebbe un'udienza non di merito ma preliminare che fissasse il principio, e quella di merito andrebbe a propria volta naturalmente dopo quella del 6 maggio del TAR con ogni probabilità, quindi andremo a giugno e chissà quando. C'è chi interviene a questo punto facendo intendere il ministro degli interni che comunque oramai se il PDL non viene ammesso neanche oggi si pone un problema molto serio di cui lui farebbe molto volentieri a meno come responsabile dell'ordine pubblico. Non si è d'accordo su chi deve spostare la data delle elezioni nel caso in cui questa fosse la valutazione di opportunità, visto che manca la lista provinciale del PDL di Roma, e cioè il 40% degli elettori, perché ovviamente ci sono costituzionalisti che fanno notare che la competenza, se ha ragione, come sostengono alcuni di loro, ha ragione il TAR nella decisione di ieri, la competenza per spostare non può che spettare solo a Esterino Montino, che è facente funzione di capo della giunta regionale del Lazio, succeduto a Marrazzo dopo i noti fatti, e quindi solo lui potrebbe eventualmente decidere lo spostamento della data e a quando. C'è chi dice invece ma neanche per idea, è il ministro dell'interno che lo fa. Insomma, siamo in un quadro in cui, grazie a il fatto che il diritto, la dottrina e la giurisprudenza spaccano invece che unire, le soluzioni famose del buon senso che molti commentatori avevano chiesto al capo dello Stato, sottolineando che comunque il capo dello Stato aveva dato buon senso, aveva detto no giovedì sera a Berlusconi che si era presentato con una versione di un decreto che diceva spostiamo, facciamo, decido io e sono l'eletto, poi aveva detto sì venerdì a un decreto di interpretazione, quindi su una linea più moderata. Ebbene, questa linea del buon senso politico sostanziale non regge più, perché sono gli argomenti formali che spaccano, che dividono, e quando in nome del diritto, della dottrina generale di giurisprudenza, lo non si riesce a capire chi deve fare cosa, ecco che la lotta tribale, muscolare dei due campi politici rischia di arrivare al suo scontro finale. A dire la verità, il candidato per uscire fuori dal ring è colui che si è messo nella condizione di sembrare violatore delle norme su come si presentano le liste, e cioè il centrodestra, quello che fino a due mesi fa sembrava avviato trionfalmente ad estendere le regioni in cui governava, con un PD ai minimi termini, molto in difficoltà rispetto alle vicende dalla Puglia alle divisioni in tutte le indicazioni dei candidati leader, che vedevano un Bersani purtroppo chiamato al capezzale di un malato con la febbre molto alta. Guardate in così poco tempo come le cose sono cambiate. Abbiamo deciso di dividere in due questa trasmissione. Occupiamoci nella prima parte dell'aspetto delle norme e abbiamo chiesto a due costituzionalisti ovviamente sono di opinione diversa, di chiarirci un pochino la loro interpretazione su chi può fare cosa a questo punto. Abbiamo collegato, e molto ringrazio di questi con noi, innanzitutto Valerio Onida, che è costituzionalista, ex presidente della Corte Costituzionale. Buongiorno Onida. Buongiorno, buongiorno. E il professor Tommaso Edoardo Frosini, insegna diritto pubblico comparato a Sant'Orsola Bene in Casa di Napoli. Buongiorno professor Frosini. Buongiorno a voi. Allora, professor Onida, dal suo punto di vista, l'evoluzione successiva e l'interpretazione delle norme vigenti sulla competenza regionale versus nazionale indicano che a questo punto, secondo lei, che cosa può avvenire? Ma che cosa può avvenire? Intanto abbiamo un giudizio in corso, il TAR Lazio ha fatto, credo, un'ordinanza cautelare, no? In cui provvisoriamente ha respinto la richiesta della lista del PDL, e ci sarà, si sente dire, un appello al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi. Quindi c'è un iter giudiziario che è normale, insomma, in queste vicende elettorali non si dovrebbe auspicare, anzi non si auspica che non ci siano giudizi e contrapposizioni davanti ai giudici, ma in questo caso c'è, e quindi bisognerebbe attendere che si compia questa vicenda giudiziaria. E questo naturalmente comporta molto probabilmente che una delle due cose: o si riesce a rinviare le elezioni al momento successivo alla definizione finale del giudizio, oppure avremo delle elezioni comunque sub iudice, nel senso che il loro risultato rimarrebbe legato al fatto che poi, quando i giudici decideranno definitivamente, abbiano accolto o no la tesi, diciamo, che è corrispondente alla situazione sulla base della quale l'elezione è avvenuta. Queste sono le due ipotesi, insomma, quindi o rinvio o elezioni sub iudice. Le posso chiedere la sua opinione intorno alla competenza in materia di elezioni regionali sui requisiti? Sì, certo. Ma guardi, qui molti si sono dimenticati che fin dal 2001 il nuovo titolo quinto della Costituzione, il nuovo articolo 122, stabilisce che la materia delle elezioni regionali spetta alla legislazione regionale. E le regioni, non tutte, ma alcune hanno fatto la loro legge, in particolare la Regione Lazio ha fatto la legge 13 gennaio 2005, numero 2, che appunto dispone in materia di elezioni. E questa legge si ispira in gran parte alla legislazione statale preesistente, infatti dice nell'articolo 1 che, per quanto non espressamente previsto, sono recepite le leggi statali. Ma questo recepimento vuol dire che questa è diventata ormai legislazione regionale, non è più legislazione statale. Quindi la loro modificazione e anche l'interpretazione autentica delle leggi regionali spetta al legislatore regionale, non al legislatore statale. Questo va detto in modo molto chiaro, la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2006, la 232 del 2006, che tra l'altro, diciamo, ironia della sorte, è redatta dal giudice Romano Vaccarella, che, come tutti ricorderanno, è un giudice certo, poi dimesso. Sì, ecco. E questa sentenza si dice, è appena il caso di rilevare, che l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante. E non può ammettersi che tale potestà sopravviva perché solo l'autore della disposizione, in questo caso lo Stato, che viene interpretato, può essere considerato l'unico depositario della volontà legislativa. Quella di interpretazione autentica è una legge, espressione della potestà legislativa, e non ha una soggettiva volontà chiarificatrice del suo autore. E pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di autore della legge interpretata. In questo caso questo vuol dire che spetta alla regione. Da questo punto di vista, secondo lei, il decreto di cui contesta con queste parole appena richiamate di cui contesta il decreto legge del governo la competenza anche interpretativa, visto che non spetterebbe più a lui, è in quanto tale, quindi, ove fosse andasse avanti l'iter delle diverse impugnative costituzionali, alcune già votate dalle regioni, altre ancora annunciate, da questo punto di vista, ai suoi occhi è incostituzionale per questo solo fatto, per vizio di competenza? Beh, certamente sarebbe incostituzionale una legge statale, come nel caso che ho citato è stata dichiarata incostituzionale una legge interpretativa della regione Trentino Alto Adige. In quel caso fu dichiarata incostituzionale. L'unico problema è che di sapere il giudice in sede di merito, in sede definitiva, quando dovrà applicare le leggi, cosa potrà fare? Secondo me dovrebbe sollevare la questione di costituzionalità del decreto legge, che pretende di applicarsi anche ai casi del Lazio, e spetterebbe quindi alla Corte Costituzionale dichiarare definitivamente che quella legge è incostituzionale, che il decreto legge è incostituzionale, e scartarlo. Ma per adesso siamo in sede cautelare, quindi credo che il TAR giustamente abbia detto non c'è quello che si chiama il fumus boni iuris per la richiesta di riammissione della lista. Quindi, posso sintetizzare, il decreto del governo ha fortissimi sospetti di costituzionalità. In ogni caso, la Regione Lazio aveva adempiuto all'attribuzione di competenze in materia elettorale con la propria legge, e quindi è più che condivisibile la decisione, sia pure cautelare, assunta dal TAR ieri. Tutte le impugnative sono possibili, bisogna però a quel punto mettere in conto che vengono dopo le elezioni. Se ho capito bene il suo punto, che non è di diritto ma è di ragionevolezza, a quel punto dice forse, visto che c'è tutto quest'iter e queste mie considerazioni, sarebbe più opportuno rinviare, ho capito bene? Ma certo, potrebbe essere rinvio, probabilmente sarebbe meglio fare le elezioni diciamo a voce ferma, nel senso quando si è tranquilli su quali siano le condizioni di legittimità della competenza. E di questo slittamento, la competenza ha ragione a questo punto chi dice che sta in capo a chi è alla testa dell'esecutivo regionale, o no? E beh, certo, la legge regionale in questione dice proprio le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, e quindi chi può indire nuovamente, chi può spostare la data? Il Presidente della Regione, è ovvio. Quindi a questo punto, se Estarino Montino, che è nella posizione che abbiamo appena indicato, non fosse invece di questa opinione, la responsabilità politica sarebbe sua di esporre poi l'iter delle elezioni regionali, a quel punto senza la lista, la commessa, eccetera, eccetera, che però sarebbero sottoposte a tutte le possibili valutazioni fino all'annullamento delle elezioni medesime, che possono venire poi dal successivo iter delle pronunce. Certo, perché se per ipotesi fosse ammessa una lista e poi in sede definitiva risultasse che quella missione è illegittima, l'elezione sarebbe falsata, quindi sarebbe da annullare. E lo stesso se fosse esclusa una lista che poi in definitiva risultasse invece da ammettere, anche in quel caso l'elezione sarebbe falsata. Quindi sarebbe inevitabile che l'elezione resti subiudice. Adesso ciò che è già avvenuto, perché andiamoci, nel caso del Trentino Autorese, che qualcuno ha ricordato, l'elezione è stata fatta prima che si definisse il giudizio, e non so se il giudizio poi si è terminato. Nel caso del Molise le elezioni furono annullate dopo l'elezione, appunto perché c'era stato un vizio nella procedura elettorale. Naturalmente è osceno dirlo, dal punto di vista del diritto non è questa la differenza, però nel caso del Molise non insorse l'Italia, nel caso del Lazio, per così dire, è un po' diversa, capisco, la cosa. Capisco che politicamente la cosa ha un peso diverso, anche se tutto sommato bisognerebbe anche osservare, sia pure questa è un'osservazione diciamo così di merito, che nel caso del Lazio la mancata presentazione della lista provinciale del PDL non impedisce agli elettori di pronunciarsi per il candidato del centrodestra, per la candidata Polverini. Non impedisce, però naturalmente perché ci sono tante altre liste collegate. No, non impedisce, però la valutazione. E l'elezione del presidente è comunque un'elezione indipendente, l'elettore può votare Polverini, insomma. Non c'è dubbio, però naturalmente sostiene centrodestra che il venir meno in quasi nel 40% degli elettori della regione della lista che esprime il partito strepitosamente più rilevante tra coloro che sostengono, almeno sulla carta, tra coloro che sostengono il presidente candidato Polverini, falserebbe a quel punto il risultato delle elezioni. Però la mia domanda finale a lei è questa: di fronte all'argomento cosiddetto sostanziale, cioè insomma non possiamo fare elezioni se non si candidano tutte le formazioni politiche più rappresentative, il diritto cosa può fare? Perché l'argomento sostanziale, se significa vabbè a quel punto però che si presentino queste liste senza andare lì più a piluccare sui requisiti di presentazione e di autenticazione, di fronte a questo il diritto che dice? Capisco, ma il diritto dice due cose: primo, che le regole fondamentali sono da rispettare, e quindi in questo caso non le piccole formalità, quelle che non hanno mai contato, non sono mai state decisive, perché nel caso Lombardia il caso si è risolto tranquillamente senza bisogno di nessun decreto interpretativo, perché lì secondo me era in gioco soltanto formalità non essenziali. Nel caso del Lazio è in gioco una formalità essenziale, una lista non si è presentata entro il termine fissato e allora non c'è. Una competizione elettorale non può che svolgersi sulla base delle regole, come un certamente concorso. Certamente. Quindi, allora, Chiara... questa è la prima risposta del diritto. Sì. La seconda risposta è: possono esistere dei metodi, dei rimedi per ovviare al rischio di elezioni subiudici, di elezioni che possono essere falsate, per esempio appunto il rinvio. Questa, diciamo, è la soluzione che il diritto può offrire, il rinvio nei casi in cui siano in gioco, siano contestate le ragioni di legittimità. Bene, allora, professor Frosini, invece passiamo a lei. Vediamo un secondo su tutti i temi su cui abbiamo sentito, fatto argomentare il professor Onida. Dal decreto, competenza del decreto eventuale fumus di incostituzionalità del decreto di venerdì, valutazione del giudizio cautelare del TAR di ieri sulla sua inapplicabilità, quindi vizio di competenza, al successivo iter, e che cosa lei immagina di questo? Il decreto era incostituzionale quello di venerdì secondo lei? Diciamo che condivido quasi completamente le osservazioni del professor Onida, che saluto, salvo però sul punto decisivo, cioè la competenza. Ora, su questa questione vorrei dire due cose. Primo, mi meraviglia che il TAR, sia pure in sede cautelare, abbia, per così dire, a quanto si legge, poi vedremo nell'ordinanza, disapplicato una legge in nome, diciamo, di un principio costituzionale. Questo, secondo il nostro ordinamento, avrebbe dovuto semmai rinviare comunque alla Corte, perché spetta soltanto alla Corte dire se la legge è di competenza regionale oppure statale, non certo a un giudice amministrativo. Primo punto. Secondo punto, prendo la Costituzione e leggo articolo 117. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Punto P dell'articolo 117, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Mentre l'articolo 122, ricordato anche da Valerio Onida, dice: il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinati con legge della regione. Ora, secondo me, questa è un'opinione naturalmente, il problema è che nella cosiddetta legislazione elettorale di contorno, nella quale rientrerebbe senz'altro il deposito delle liste, la presentazione delle... Lei dice la competenza è rimasta nazionale? È rimasta nazionale, come anche nella propaganda elettorale. La propaganda elettorale... La fermo un secondo. Questo significa che per la stessa dottrina, che cosa davvero sia di competenza di chi, se lo ci si vede davanti alla Corte, e dipenderà da chi ha la maggioranza alla Corte, come è ovvio ed è giusto, io non discuto però insomma, è così. La distinzione è, si usa fare in dottrina ma anche in giurisprudenza, e fa sistema elettorale in senso stretto, cioè il metodo con il quale si trasformano i voti in seggi, e quello sarebbe sicuramente lo sceglie la regione regionale. Esatto. Mentre legislazione elettorale di contorno, la propaganda elettorale, è legge statale. Per esempio, non si può immaginare una parte la propaganda, la propaganda regione. Ma i termini per la presentazione, l'autenticazione della lista, quella materia che si usa distinguere e classificare come legislazione elettorale di contorno. E quindi la Costituzione al 117 dice: lo Stato ha competenza esclusiva sulla legislazione elettorale. Benissimo. Mentre per le regioni dice sul sistema di elezione. Perfetto, quindi secondo lei il decreto come è costituzionale, e quindi da questo punto di vista sorprende che in sede cautelare il TAR abbia detto che non è applicabile, se ha ragione. Esatto, lei. A mio appunto. A questo punto, che cosa deve prevalere? L'esigenza cautelare sostanziale, meglio rinviare perché tutte le decisioni di merito arriveranno dopo le elezioni, e fare in modo che rinviando che si presentino tutti, compreso il PDL, a Roma, oppure no, secondo lei? Ma è chiaro che questo è un nodo difficile da sciogliere, cioè il rinvio consentirebbe di diciamo sanare e pianificare al meglio le elezioni, mentre invece il mancato rinvio potrebbe consentire nel giudizio di merito in sede di TAR, nel giudizio d'appello in sede di Consiglio di Stato, nel giudizio costituzionale perché alcune regioni hanno impugnato il decreto di fronte alla Corte, di rimescolare un po' tutto ciò che è avvenuto con le elezioni, addirittura nell'ipotesi anche di sciogliere e andare a nuove elezioni, come è stato ricordato da voi il caso del Molise e della Basilicata. Forse un rinvio consentirebbe appunto di poter far svolgere le elezioni in maniera tale da impedire che vi fossero ulteriori, diciamo, impedimenti di carattere giurisdizionale. Ma a quel punto chi lo scioglie? Nel caso di annullamento di elezioni, chi lo scioglie il Consiglio regionale nel frattempo formato da elezioni di cui poi successivamente un giudizio di merito annulla invece la validità? Beh, nel caso si fossero già fatte le elezioni, c'è una decisione del Consiglio di Stato, questa sarà immediatamente eseguibile laddove verranno rilevate dei vizi tali da impedire il prosieguo dei lavori del Consiglio regionale. Bene, io adesso la fermo perché c'è la pubblicità. Cioè, è chiaro a casa, cioè, io vorrei che fosse chiaro, se vince la Bonino senza lista PDL, può avvenire di tutto, questo è quello che io capisco. Può avvenire che vi sia una pronunzia per cui bisogna sciogliere quel consiglio perché semplicemente le elezioni vengano poi nel merito eventualmente valutate nulle. C'è il precedente, anche se è un precedente per ragioni diverse, con norme intervenute diverse, con decisioni diverse, e c'è da un'altra parte invece la possibilità che tutto l'iter di queste dello scioglimento nel merito abbia, come si vede, degli ispirazioni di dottrina completamente diverse. Il professor Onida dice la competenza è regionale, il professor Frosini dice la nostra opinione è che la competenza è regionale sul sistema con cui si traduce il voto in rappresentanza, non sulle norme che dicono come ci si presenta, come si fa la campagna elettorale. Sulle norme generali, non sul sistema elettorale, la competenza resta nazionale. E quindi eccoci in questo bel campo in cui l'opinione resta divisa. Eccoci tornati in studio. Come il commento dell'editoriale di Repubblica al titolo d'apertura, al TAR boccia decreto salvaliste, un editoriale firmato da Stefano Rodotà, una crisi di regime, perché l'idea di fondo è che l'effetto boomerang finale serva in realtà sia da leggere, da interpretare come una vicenda che ha in sé tutte le contraddizioni della violazione sistematica delle norme, delle regole, dei principi fondamentali dell'ordinamento da parte di chi è oggi al governo, e per questo abbia avviluppato l'intera vicenda in una tale mole di contraddizioni della quale il rischio di uscirne è con appelli alla piazza, polemiche contro il Quirinale coinvolto in una vicenda alla quale sarebbe stato meglio che non fosse coinvolto, e quindi appunto una crisi di regime. Certo, io capisco chiunque sostenga sul diritto di voto non si scherza, sui suoi requisiti di trasparenza non è possibile giocare. Mi chiedo se a questo punto, procedendo come treni ciascuno sui propri binari, siamo veramente consapevoli del rischio che a questo punto a me sembra molto concreto, cioè un rischio di uno incidente politico-istituzionale dalle tali conseguenze da andare ben oltre le elezioni regionali del Lazio, probabilmente al di là di ogni intenzione di chiunque sia il protagonista in campo. Non credo nessuno possa attribuire al PD una simile intelligenza degli avvenimenti, perché neanche un ingegnere esperto in abbattimenti avrebbe potuto immaginare una tale sequenza politico-istituzionale come quella avvenuta in queste ultime settimane. Sicuramente il PDL ha molto su cui riflettere. I giornali oggi accreditano la tesi per cui Berlusconi è fin d'accordo ad alzare il livello dello scontro. Io leggo un titolo della Stampa, ma i giornali, quelli più vicini all'ispirazione di Berlusconi, dicono a questo punto gli elettori capiranno che non siamo noi ma sono i magistrati a decidere quello che vogliono. Queste sono le dichiarazioni o le opinioni attribuite a Berlusconi sul Libero e sul Giornale. Se ne esce con uno scontro di piazza a questo punto? Ma io non so lo scontro di piazza dove ci può portare. Credo che ci possa portare a ulteriori sviluppi di una tensione politica molto forte, perché qui non si è più d'accordo nemmeno su chi ha la competenza, su come si vota, in che modo ci si presenta alle elezioni. Ha chiamato un magistrato del TAR del Lazio e di un'altra sezione rispetto a quella che ha preso ieri la decisione cautelare, Silvestro Russo. Ci siamo accertati che fosse un magistrato del TAR per evitare effettivamente che poi qualche omonimo che ne approfittasse per esternazioni. È collegato con noi. Buongiorno, dottor Russo. Buongiorno, caro dottore. Prego. Allora, anzitutto saluto lei e la ringrazio per la gentilezza e soprattutto anche l'amico Tommaso Frosini e il maestro, che è un nostro grande maestro del diritto costituzionale, professor Onida. Però in tutta onestà io mi sento molto più vicino alle tesi che diceva il professor Frosini sotto molti profili. E c'è, anzi aggiungerei un'altra cosa, c'è anche un'altra disposizione dell'articolo 117 della Costituzione che giustifica l'emanazione del decreto legge, cioè quella di assicurare su tutto il territorio della Repubblica livelli omogenei della prestazione dei servizi inerenti ai diritti civili, oltre che a quelli sociali. Quindi ci sono vari argomenti che giustificano la competenza statale, che rimane comunque tale in quanto è legislazione di contorno del procedimento elettorale e non il sistema elettorale, quello che traduce in diversi meccanismi più o meno maggioritari, più o meno proporzionali, i voti in rappresentanza in forme di governo. Certo. D'altro canto, guardi, rapida lettura della legge del Lazio, tanto per restare nel Lazio, si vede che il recepimento è un recepimento molto dinamico, cioè prende tutte le leggi del 1968 e del 1995, comprese tutte le modifiche che nel tempo saranno fatte. Quindi secondo me io andrei cauto sul bollare di incompetenza. Poi forse ci possono essere altre implicazioni, perché guardi che sotto certi profili il decreto legge, soprattutto in materia di autenticazione, potrebbe essere anche maliziosamente applicato in contesti diversi e poi non so come va a finire. La interrompo per dire la mia. Io per norma vigente non dovrei dare una mia sola opinione, perché altrimenti sto violando un regolamento ed espongo l'azienda quindi a sanzioni. Io dovrei parlare di tutte queste vicende dandovi la parola senza esporre opinioni. La mia stessa opinione, però, come cultore del diritto, è che mentre nel merito, non sto dicendo sulla competenza, quello su cui hanno espresso opinioni diverse il professor Onida e il professor Frosini, nel merito delle norme contenute nei diversi articoli del decreto legge emanato dal governo venerdì scorso, quanto al termine estensivo per accettare la presentazione di lista dal rappresentante di lista comunque compresi nel recinto del palazzo, per così dire, presso cui si presentano le liste entro l'ora indicata dalle norme vigenti, quello è un criterio estensivo. Quanto invece al requisiti per l'autenticazione delle liste compresi nell'articolo 2 del decreto, io devo dire che me lo sono letto, riletto 50 volte, e siccome lì non vedo un principio estensivo indicato per l'interpretazione nelle mani del magistrato, ma dice semplicemente, l'ho letto e riletto, sta scritto così, che i requisiti previsti dalle norme vigenti possono essere insomma derogati, ecco, io in quel caso devo dire che sul contenuto e come è scritto l'articolo 2 io qualche dubbio ce l'avrei, questo sono molto sincero, perché non riesco a capire come non possa essere applicato dando adito a qualunque genere di cosa. Lei che ne dice, dottor Russo? No, è vero, però è un principio un poco dirompente, soprattutto in materia di appalti, ma sa cosa però mi preme sottolineare del decreto legge? La sua forza di drastica semplificazione, perché è proprio questo il problema. Noi oggi ci stiamo incartando sulle elezioni del Lazio, ma ogni santa elezione che il Signore manda sulla terra c'è un profluvio di contenzioso proprio sul e questo lo abbiamo richiamato, però la particolarità di questa volta è che questa ha riguardato Lombardia e Milano, risolto senza far ricorso al decreto, e poi Lazio, cioè i punti diciamo più importanti dal livello nazionale di questa consultazione. Temo che non ne usciamo, perché come si vede anche sulla competenza le tesi sono molto diverse, e se Berlusconi dice ai suoi scendiamo in piazza e dimostriamo che sono i magistrati di fronte a interpretazioni opinabili della legge a dire che ci cacciano dal ring e che io sarei il corsaro che viola le leggi, cosa succede? Se no, riempiamo le piazze così? Ma io non sul profilo politico. Questo aspetta a me chiederlo e andare avanti nella trasmissione. Francesco da Roma, che ne pensa? Buongiorno, intanto saluto lei e tutti i suoi ospiti. Dica. Ma io la faccio piuttosto semplice, scusatemi, le faccio una premessa così tolgo ogni dubbio. Io sono un elettore di centro-sinistra, però sarei contento se insomma la lista PDL fosse riammessa. Ma detto questo, e dato che adesso le regole queste sono, Se questo non dovesse succedere per motivi legali, ovviamente, se la dovrebbero prendere soltanto con la mancanza di professionalità nel loro lavoro e basta. Non è che dovrebbero cominciare a riparlare di comunisti mangia bambini o cose del genere. E sono contento se la rimettono, insomma, la lista PDL, anche perché immaginate se invece vince comunque la Polverini e si trova di fronte una massa di assessori o di consiglieri con cui non va d'accordo, insomma la cosa sarebbe molto complessa in questa regione. Però vedi, quello... aspetti, le faccio notare, Francesco, siccome il suo ragionamento non fa una grezza, però è un ragionamento che esita nel meglio che Sereno Montino selezioni le rinvie, visto che c'è questa confusione, oppure teniamole comunque e la colpa è di chi non ha rispettato le regole e alla luce dell'interpretazione prevalente della magistratura, se questo fosse confermato se ne sta fuori e per favore non rompa la scatola, perché sono due strade diverse. Sì, ammetto che è molto complesso e in effetti anche le persone che poi sono professioniste in questo ruolo si stanno incartando dalla scelta. Le devo dire che in tutta onestà che io le elezioni le farei, esatto, le farei svolgere lo stesso. Questa è una risposta chiara, coerente, argomentata e poi accada quel che accada. Salvo dalla provincia di Pavia, prego Salvo. È collegato Salvo, ci sente? No, mi pare di capire che la linea di Salvo è caduta, c'è Piero da Cesena, prego Piero. Buongiorno dottore. Senta, il mio intervento è questo: a prescindere dalle regole e tutto quanto, il diritto di voto è sacrosanto, un diritto che i nostri padri si sono conquistati, un diritto che certa gente per votare va a votare sotto le bombe, e a prescindere da questo volevo dire che la politica stavolta doveva fare non un passo indietro, ma tre passi indietro, perché non è una partita di calcio. Ma ho capito, ma alle elezioni che la politica faccia un passo indietro mi spieghi e spieghi a chi? No, un passo indietro sulle regole, via, su certe regole, non un passo, ma due passi indietro, non è una partita di calcio dove certi tifosi... Chiaro, quindi lei dice il decreto era meglio che non lo facessero esatto, e accettassero... Esatto, e poi anche stavolta una parte politica, ossia destra o sinistra, non voglio fare perché siamo in par condicio, aveva in mano una carta di democrazia, di far vedere una vera democrazia, non giocate neanche stavolta. Via. Grazie anche a Piero da Cesena. Eccoci tornati in studio, per quest'ultima parte l'opinione di due colleghe che io stimo tantissimo. La prima è Norma Rangieri del Manifesto, buongiorno Norma. Buongiorno. E Maria Giovanna Maglie. Buongiorno Maria Giovanna. Buongiorno. Allora, Norma, nel chiederti come la pensi su, innanzitutto su queste competenze, eccetera, eccetera, richiamo ai nostri ascoltatori le parole finali dell'editoriale di oggi, del Manifesto. Gianni Ferrara scrive: l'arbitrio, il sopruso, la violenza, la perversione, l'uso illegale del potere legale, lo stravolgimento degli atti legislativi a fini personali o di parte vanno contrastati, fermati prima che sia troppo tardi. Ed è un vero appello a approfittare di questa occasione, lo scontro di interpretazione, ma anche dopo la sentenza del Tardieri, per dire adesso basta, li fermiamo. Come la pensi su tutto questo intrico di cui abbiamo parlato, sull'attribuzione di competenze, la dottrina che ci dice da una parte con Onida è competenza solo regionale e dall'altra ci dice ma no, come, leggiamo la Costituzione, la competenza regionale è solo sul sistema elettorale, non sulle norme di contorno, e quindi come ci si presenta alle elezioni, quando si tengono e come sono le norme di propaganda. La tua opinione nella sostanza è che a questo punto è meglio farle comunque ed esporsi o rinviarle le elezioni regionali del Lazio per evitare gli scontri, tu che dici? Ma guarda, ti dico intanto che noi che facciamo i giornali in questi giorni stiamo diventando tutti esperti improvvisati di articoli, commi, perché la situazione è, se non fosse tragica sarebbe ridicola da un certo punto di vista. Ma il fatto è questo, che l'equilibrio, diciamo, su cui eravamo vissuti, convinti democraticamente, normalmente, di destra o di sinistra, dei poteri dello Stato, del potere legislativo, del governo, del potere del Parlamento e fare leggi, questo equilibrio ha ricevuto delle scosse molto forti, quindi il sistema si è incrinato, e allora qualunque problema, adesso abbiamo questo che non è piccolo e molto grosso, ma qualunque problema riguardi le competenze diventa gigantesco e rischia sempre di far deragliare addirittura la nostra convivenza civile, insomma. E in questo caso è particolarmente illuminante, perché io ho sentito ieri il ministro dell'interno, che non è proprio l'ultimo arrivato e non è neanche uno di sinistra, che diceva: beh, se il TAR dice che la lista del PDL è fuori, la lista del PDL è fuori. Quindi non capisco adesso questo nuovo allarme, questo nuovo drammatizzazione. No, in altre parole, Norma, c'è chi nel centrodestra non condivide la linea di cautela istituzionale. Ma dovrebbero abituarsi a rispettare un pochino, non dico un pochino. Non possiamo sempre dire, adesso anche il TAR del Lazio è diventato, diciamo, uno strumento del diavolo. Quando il ministro dell'interno, ripeto, interviene pubblicamente e dice: beh, adesso aspettiamo la decisione, poi quello che decide il TAR, c'è un ricorso al Consiglio di Stato, peraltro, quindi voglio dire, non, chi vuol drammatizzare? Vuol drammatizzare perché in realtà ha un problema interno. Il presidente della regione Lombardia, Formiconi, che dice: adesso andiamo alle elezioni e poi col fuoco amico ci faccio i conti dopo, o Bossi, che continuamente dice: ma questi sono degli incapaci, ma insomma se avessero fatto bene il loro lavoro non saremmo a questo punto, sono tutti segnali non solo di uno squilibrio del sistema Italia in generale, ma anche di una certa crisi all'interno del centrodestra. Beh, insomma, anche perché a Roma, Norma, c'è un problema evidente che riguarda gli ex finiani, questo è anche un cieco. Ma sì, adesso non voglio allargare il discorso, ma insomma Alemanno e tutte le cose degli scandali di Mockbell. Quindi in buona sostanza, se capisco bene, tu dici: facciamole e poi decida chi deve decidere dei ricorsi. Ed è inutile fare insomma rumor di ferraglia, come dire, scendiamo nelle piazze e chissà cosa facciamo. Attenetevi a quello che è stato deciso e cerchiamo di andare avanti. Che dice Maria Giovanna Maglia invece? Ma io, piuttosto che tragico, trovo che ci sia del ridicolo in questa vicenda, nel senso che trovo ridicolo, anche se dispiace vedere ridotto così un sistema, il sistema del paese, ridicolo nel senso che ho trovato fin dall'inizio chiare le prove di insipienza e incapacità da parte di chi nel Lazio non ha portato a compimento la consegna delle liste, perché se si devono consegnare entro certe date, in certi modi, è così che si fa e punto. E ho trovato risibile la mancanza di autocritica da parte di chi si è comportato in questo modo, cioè io non ho sentito in questi giorni nessuno tra i responsabili, ma anche tra gli altri dirigenti del centrodestra, dire agli elettori: scusate, ci abbiamo sbagliato. Prima cosa. Dall'altra parte ho trovato e trovo altrettanto risibile e grottesco nel senso che è diventato lo strumento principale di campagna politica quotidiana, il comportamento dell'opposizione che si attacca in continuazione alle forme, agli errori formali, ai possibili scandali, le possibili polemiche, e le sostituisce alla sana attività politica. Lo spettacolo è deprimente, ma da una parte mi fanno ridere quelli come la Bonino, come Pannella, come Di Pietro, che gridano al golpismo, e dall'altra mi sembrano eccessivi e veramente degni di una bastonata in testa quelli che adesso si sentono vittime. Qual è la soluzione? La soluzione probabilmente sarebbe affidata al buonsenso. Il sistema di raccolta delle firme è ridicolo in questo modo oggi, con i partiti così come sono, e le leggi regionali dovrebbero essere adeguate anche ad altri modi di procedere. Ma tu le elezioni regionali del Lazio preferiresti, alla luce di tutto questo che abbiamo visto incombere, che si tenessero o per ragionevolezza rinviarle? Dunque, da un punto di vista sostanziale, le elezioni nel Lazio si devono tenere, e pensare perché è stata messa in mano degli incapaci la consegna delle firme, di non far esprimere, di non avere nelle liste il principale partito, è ridicolo. Il partito che è al governo è ridicolo. Posso dire, ti interrompo per dirti, guardate, io ci avrei scommesso che chiedendo a due colleghe, sia pure di opinioni, storie, culture molto diverse, come Norma e come Maria Giovanna, interna, di far esprimere le loro opinioni. Intanto hanno espresso un'opinione che, in nome della ragionevolezza, senza mettersi a spaccare il capello in quattro, su questo è convergente. Cioè, che si facciano, perché le cose di chi è stato bocciato dai magistrati sono un po' ridicole. Poi hanno opinioni diverse, ma in questo la ragionevolezza, perdonatemi, che considero anche un aspetto femminile, prevale, signori maschi in ascolto. Poi vai avanti, Maria Giovanna. Sì, che le elezioni si facciano, però che si facciano piuttosto che non rinviarle. E in questo devo dire che trovo che la responsabilità principale del gioco al massacro vada assegnata ai radicali, e che i radicali si siano giocati in questa vicenda elettorale forse l'ultima delle loro partite giacobine. Li trovo tra tutti i personaggi detestabili e mediocri di questa vicenda i più ipocriti, perché quelli che invece gridano hanno gridato la legalità e si sono comportati in modo invece, secondo me, molto specioso e molto ipocrita. Io ho una domanda finale da fare a te e a Norma, ma con risposta da 10 secondi a testa. La tua opinione, Maria Giovanna, per come si sono messe le cose, e che rischia davvero questa volta fatalmente Silvio Berlusconi di avere l'ennesima, vedremo quanto, finale, ma ferita molto profonda nel suo rapporto con gli italiani e col suo popolo di centrodestra, che nel nord potrebbe premiare solo la Lega e dalle altre parti dire: guardate, avete sbagliato tutto, è a rischio Berlusconi oppure no, secondo te, Maria Giovanna? È a rischio il PDL, secondo me, è a rischio anche il PD, è a rischio il bipolarismo, questo sicuramente. Un'osservazione: con candidati più forti tutto sarebbe diverso. Sono stati scelti in alcune regioni dove, come Lazio, dei candidati non troppo sufficientemente, esatto, autorevoli. Allora Norma, la stessa domanda a te: a rischio Berlusconi e il bipolarismo, ma Berlusconi in prima persona? No, secondo me Berlusconi il vero nemico ce l'ha in casa, e quindi ci deve fare i conti, e queste elezioni saranno un momento in cui vedremo questi conti. Bene, come avete visto le opinioni sono diverse in dottrina, sono diverse in politica, il rischio è molto forte. La mia opinione è che leader politici che costruiscono partiti cui responsabili non sanno presentare le liste, inevitabilmente pagano loro il conto e non i loro sottoposti. Certo, magistrati che decidono su basi così scivolose di competenza diventeranno sempre più i veri padroni delle norme pubbliche del nostro paese. Colpa dei politici che sulle norme non le sanno più scrivere come un tempo. Questa è la mia opinione finale. A domani, grazie a Regia Paolo Corleone, Alessandro Marco Turri, redazione, linea Giornale Radio.